ho imparato a capire qual è la serie di domande che sistematicamente una persona del genere si pone. La prima domanda è un fatto casuale? Qui non è che si procede se siamo certi che sia andata così, è il contrario, si procede ad esaminare quello che è successo se è possibile che non si tratti di un caso. E allora la domanda successiva nel caso di Twitter qual è? Si tratta dell'iniziativa privata di un singolo hacker o si tratta di un'entità organizzata? Rapidamente viene messa da parte l'ipotesi del singolo hacker per le caratteristiche dell'attacco, per la sua valenza anche numerica, e ci si pone la domanda successiva: siamo di fronte a un soggetto privato, ad esempio un social forum rivale, oppure siamo di fronte ad un attacco organizzato, magari semplicemente una grande manovra fatta da un servizio di un altro paese. E come abbiamo visto, quelli degli attacchi informatici sono anche una delle frontiere, delle nuove guerre di spionaggio, anche certo, quelle della pirateria informatica, quello degli hacker. Altro esempio, scoperta una centrale di falsificazione di euro nel Casertano ad opera della Camorra. Che sospetto fa venire questa notizia ad un investigatore? Possono essere diversi. Primo, che la moneta, l'euro, abbia delle caratteristiche tecniche tali per cui la criminalità organizzata trovi utile e vantaggioso falsificare la moneta. Mi riferisco a delle particolarità tecniche non tanto dal punto di vista fattuale, materiale della moneta, ma dal punto di vista della sua costruzione giuridica. La seconda ipotesi è che la criminalità organizzata possa essere strumento di una manovra di destabilizzazione economica, monetaria, che quindi si punti a invadere il mercato di euro falsi per provocare una perturbazione nell'ordine monetario internazionale. In effetti, nello stesso periodo ci fu una anomala circolazione di banconote da 20 euro a Londra. Altri retroscena possono essere visti in notizie di cronaca come i furti di rame di cui tanto si parla. Sì, noi siamo in un momento in cui il rame è una delle risorse strategiche fondamentali, tutti i nostri cavi, tutto quello che viaggia su cavo è cavo di rame. Il rame peraltro è anche una delle componenti importanti dell'industria informatica, quindi c'è un aumento notevole del costo del rame. A questo punto diventa un affare organizzare furti di rame, come per esempio i cavi che scorrono lungo i binari, e quindi poi rivenderle al maggior offerente sul mercato internazionale, ben inteso un mercato nero. Qualcosa del genere accadde nei primi anni 90, quando improvvisamente scomparvero le coperture dei tombini in Ghisa. Noterete che ormai sono pochissimi, le coperture sono quasi tutte in cemento. E allora perché ci fu perché all'epoca? C'era una forte richiesta di Ghisa, in particolare da parte dei paesi emergenti come la Cina, per l'industrializzazione di base, e quindi conveniva fare questo tipo di furti, tra l'altro a rischio zero. È molto facile fare grossi tonnellaggi di materiale in questa maniera, dopodiché si sarebbe proceduto a rivenderli. E delle notizie più recenti? Per esempio c'è stata la questione di Google fra Cina e Stati Uniti, dove Google è stato bloccato dai cinesi anche su Hong Kong per un solo giorno, quello che significa una sorta di avvertimento e una sorta di misura di pressione, che dà l'idea però di quanto è rilevante in questo momento il controllo della rete. Oppure, ad esempio, molto interessante mi pare anche lo scontro che si sta profilando sulla questione dei preti pedofili. E in questo i servizi segreti cosa c'entrano? Intendiamoci, ovviamente quello che sto per dire non attenua affatto le responsabilità morali gravissime dei sacerdoti che possano aver fatto una cosa del genere, e ancor più di chi può averli coperti, sia chiaro. Però la simultaneità con cui stanno scoppiando questa serie di casi, dall'Austria alla Nuova Zelanda, dalla Norvegia al Canada, dall'Irlanda all'Italia, parte dell'America Latina, gli Stati Uniti, l'attenzione data da un giornale come il New York Times dà l'idea che ci sia una campagna organizzata e non solo a livello nazionale. Ora, da un lato questo fa pensare che sia possibile che si sia aperto un conflitto anche all'interno della Chiesa, soprattutto le notizie relative alla copertura data a molti di questi sacerdoti, addirittura prelati, sono notizie che possono venire solo dall'interno dell'establishment vaticano. Dall'altro, la presenza del New York Times e i frequenti errori, fra virgolette, di comunicazione fa pensare che ci sia qualcosa fra il Vaticano e Israele, e che quindi il Vaticano rinvia al mittente in qualche modo, attraverso questi segnali, l'attacco che riceve. Oppure, per esempio, si può pensare anche a un qualche ruolo americano in questo. Non dimentichiamo che la Chiesa non solo si è opposta alla guerra del Golfo, ma è una delle più grosse resistenze alla penetrazione del modello di vita, dello stile di vita americano in Europa.